spoglie mi arriva il profumo, la pelle del luto che inebria. Non solo ho capito chi sei, ma ho capito che quello che hai dentro è potente, è un bene che non tocca a tutti. Il bacio è così delicato, d'averne persino paura, da farne l'esempio di tutto e da tutti tenerlo segreto e staccato, da farlo morire poi dopo. E tu sei bella come Venezia addosso, Venere dolce che rendi feconde le sponde di un cuore che aveva fallito. E tu sei bella, tanto da farne un vanto. Non c'è fragranza per farti un esempio, non c'è neanche un fatto che porta un ricordo. Al mare ci andiamo più tardi, se il sole si abbassa è più bello, il nostro tramonto è più rosso del sangue che abbiamo appena mischiato. È forte il profumo del nudo e tu sei bella, bella che riempi un campo, sera che arrivi non puoi portar via la luce del quadro migliore che ho fatto. Le parole sono, sono come vino, più ne vedi più ti rendi conto che non hai mai vinto. Le parole possono volare, ma ti volano dentro. Le parole quando poi le hai dette hanno già perso senso. Le parole fanno che passare il tempo. Le parole rompono silenzio e fanno un eco immenso. Se non fermi il tempo le parole possono far male. Le parole sono sale vento dopo il tuo profumo. Le parole sono, sono come vino. Più le vedi più ti rendi conto che non hai mai vinto. Le parole possono volare ma ti volano dentro. Le parole quando poi le dette hanno già perso.